Allez, prends un autre, là. Mini Charles. D'abord. Vogliamo iniziare da canzone sotto la base. Scusami, la mia ancora è sotto la scritta, qui ho già scritto sotto la quindi da questa notata. Oh, ecco, sinceramente. Stai arrivando tu, lo giuro. E chi mi dice se deve fare bene, se deve fare bene. Il giorno è la cosa. Il giorno è la cosa. Я писка шла вот бацнуть. Бля, это писка. На, Адя. Ну, вот. Non so, metti la lingua, forse è più che tutto nel meglio. Non so, mi viene lì, va bene. Általános tudósítása neki. Erre szólos a tudósítás. Tica! Kutyám. Jaj, jé, kutyám. Jaj. Valamelyek, ahol akarok. locsolgass te másnak. Mit gondolsz neked?